Voglio essere controllato dalla mattina alla sera. Stiamo facendo la cura Ludovico. Scusatelo, scusatelo. Stoppa, cos'è? Stoppa. Cos'è il Green Pass?